Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È il 3 di luglio del 2012, buongiorno a tutti. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questo è il meglio di Voi siete qui. Prendiamo due, non una, ma due delle storie che sono arrivate durante tutta la stagione del 2011-2012 e le riraccontiamo, questo per tutto il mese di luglio. Solita ora, 16:45, dopo il GR con la borsa in mezzo. Il meglio di Voi siete qui. Oggi vorrei cominciare con un messaggio fuori contesto. Il messaggio fuori contesto è che, essendo il 3 di luglio, è il compleanno di mia mamma e quindi le faccio gli auguri, anche se non ricordo mai esattamente quanti anni compie, o meglio, non ricordo mai l'anno di nascita e di conseguenza credo 63 o forse 64, ma chi se ne frega. Comunque, auguri. Andiamo invece alle storie di oggi. Io ricordo che quando ho mandato in onda la prima delle due storie, che è la storia di un amore tra una professoressa del liceo ed un allievo del liceo, e chi la racconta, cioè il protagonista e l'autore, è l'allora allievo, adesso padre di due figli, mi ricordo che arrivarono un sacco di messaggi, credo, di uomini invidiosi, immagino, però mi ricordo che scrissero: sta storia non è vera, se figurati, a tutti quanti piacerebbe aver avuto una storia con una professoressa. Beh, in realtà la storia è vera perché lo so, perché credetemi, perché la storia è vera e devo ringraziare Mauro per avermela mandata. La seconda storia di oggi invece parla di un altro tipo di amore, di un amore tra coetanei e soprattutto di un amore che sta per finire e ha a che fare con lo smettere di fumare. Ne parliamo dopo però. La prima storia appunto racconta di quando tu fai una scuola che magari non ti piace nemmeno tanto, stai tirando a campare, hai voglia di finirla e c'è qualcosa, succede qualcosa che ti permette invece di avere voglia di andare a scuola, di avere voglia di frequentare quel luogo. Quella cosa, come spesso accade, si chiama amore. E qui in realtà c'entra anche col teatro, quindi qualcuno probabilmente più retorico di me direbbe che c'è quindi un amore anche per il teatro, noi però non lo diremo mai. Mauro in realtà in questa storia inizia a fare un corso di teatro a scuola e nasce qualcosa con questa professoressa. Questa cosa va avanti fino a che lui non finisce e fino a che lei decide invece di chiudere la storia. Lui finisce la scuola e lei decide di chiudere la storia. Voi siete qui, @radio24.it, continuate a mandare le vostre storie. Questa è la storia di Mauro e della sua prof. È il 1993 ed è quasi Natale. Sono all'ultimo anno del liceo, ma non mi interessa più niente. La scuola, lo studio, i miei compagni, l'ambiente. Sono stanco marcio di quel posto. Non ne voglio più sapere, ma nemmeno me lo confesso. Tiro la carretta con abnegazione, dicendomi che durerà pochi mesi. E una volta passati, in qualche maniera mi butteranno fuori. Nemmeno loro ne possono più di me. Sperano solo che ne combini qualcuna di grossa per potermi mandare via. O almeno io spero tanto che la pensino così. Un giorno dopo l'altro. Un giorno in più e un giorno in meno. Bisogna cercare di passarci attraverso, a giorni così. Erano diventati come dei cerchi sempre più stretti, pieni di insidie. Tanto tra pochi mesi sarà tutto finito. Intanto in un'altra classe c'è una giovane professoressa di italiano, latino e greco. È appassionata di teatro. Le sue alunne, che sono tutte mie amiche, sono carine con me. E le dicono di fare un corso di teatro e di coinvolgermi, che sono appassionato. All'epoca qui è successa questa cosa, io avevo proprio iniziato allora a fare teatro, anzi facevo cabaret in piccoli locali di provincia e poi insomma man mano la cosa è cresciuta e tuttora mi sforzo, cerco di essere il mio lavoro. È così che una mattina, durante un intervallo, una di loro viene a chiamarmi, insieme alla professoressa, e mi presenta. Mi dice che vorrebbe fare un laboratorio a scuola, con una sua amica attrice professionista. E io la guardo. Sono già appagato che una prof di latino venga da me a chiedermi una mano. E poi le guardo i capelli, nerissimi. Le guardo la pelle, bianca, che fa contrasto coi capelli. E dico di sì. L'appuntamento con lei è sabato pomeriggio. Io in pochi giorni mi leggo Stanislavski e Grotowski, gli unici di cui ho sentito parlare. Mi imparo le parti che mi sembrano importanti e mi presento all'appuntamento. E parliamo. Tantissimo. Di letteratura, di filosofia, di teatro. Lei mi porta a Milano a vedere I giganti della montagna di Strehler. Poi mi porta ancora a Milano, in un altro teatro, il CRT, a vedere spettacoli di ricerca. Così, parlando di letteratura, di filosofia e di teatro, cominciamo a darci del tu. Nel 93 tra una prof e un allievo non è normale. Adesso però cominciamo a vederci, anche di sera. Ed è uno spettacolo per me, appena dopo cena, prendere la Ritmo 60 CL di mio padre e partire con la nebbia per andare a parlare di teatro con una prof. Torno sempre più tardi. I miei non intervengono. I miei risultati scolastici non possono peggiorare, anzi, sono convinto che loro sperano che questa mia frequentazione migliori la mia situazione scolastica. Arriva dicembre, è il 1993. E il mio compleanno numero 19 lo festeggio insieme a lei. Lo ha deciso lei, invitandomi a teatro, a vedere un altro sedicente teatrante che fa il nostro liceo. Dopo pochissimo tempo che siamo dentro, mi dice se mi va di uscire, di andare a bere un bicchiere, e io accetto. Fuori, nonostante siano le 10:30 di sera del 4 dicembre, non fa freddo. Ci sono le stelle. Io salgo sulla sua Y10 e ce ne andiamo a bere. Solo a questo punto, una vaga sensazione comincia a impadronirsi di me. Solo che a 19 anni non hai tempo per farti domande, e tantomeno per ascoltare le risposte. Dopo la mezzanotte brindiamo il mio compleanno. Lei sorride dei miei 19. Lei ha 8 anni più di me. Mi dice che è stata una fortuna incontrarmi per lei. E io rido, e scherzo, e mi sento un dio. Usciamo dal locale, ci sono le stelle e non fa freddo. Lei è a 2 passi avanti a me. Si ferma, mi guarda e mi chiede: posso darti un bacio? Posso darti un bacio? Io mi guardo intorno. Sono incosciente, ma preferisco guardarmi intorno. E senza dirle niente la abbraccio e la bacio. Saliamo in macchina. Quella sera arrivo in casa alle 3:30 e domani alle 6 devo essere in piedi, ma va bene così. Il giorno dopo vado a scuola e voglio guardare con occhi diversi tutti quelli che ci stanno. Tutti. Insegnanti, il preside, bidelli, bidelle, studenti e studentesse, tutti. Quelli belli, che credono di essere i giusti, e gli altri, più sfigati. Quelli che avranno un presunto successo nella vita e chi invece non si porrà nemmeno il problema del successo. Tutti. Tutti loro. Se solo sapessero cosa si prova a osservare una moltitudine di persone che vedi tutti i giorni, abitualmente, coi quali soffri, che un po' odi, sì, provi un po' di odio nei loro confronti. Se sapessero. Una mattina ti svegli e li guardi, e tutto loro affannarsi per sconfiggerti, per esercitare il loro insignificante potere su di te, non ha più nessun significato. Ti sembrano piccoli animali inerti che non sanno, anzi, nemmeno che non sanno, che gli è proprio preclusa la conoscenza. L'indomani a scuola, pur non facendo nulla di eclatante, sono circondato da un'aura che mi illumina. Probabilmente le sue alunne e le mie amiche hanno cominciato ad annusare qualche tresca tra me e la loro prof. E io, da maschio coglione, sono convinto di dissuaderle. E invece non faccio che confermarglielo. C'è proprio un senso di non appartenenza al mondo in cui effettivamente stavo, il mondo in cui effettivamente appartenevo, nel senso che quando uno ha 18 anni, 19, succede una cosa comunque così straordinaria, una sorta di riscatto al di là dell'effettivo emozione, dell'effettivo innamoramento di quel momento. C'era questa cosa qui che effettivamente mi faceva camminare a 4 metri d'altezza. All'intervallo ci scambiamo libri con messaggi nascosti fra le pagine. E quando suona la campanella e la scuola finisce, faccio finta di andare in stazione, di salire in treno, poi giro di nascosto e me ne vado a casa sua. Questa cosa va avanti dal 4 di dicembre fino ad aprile, giorno in cui arriva la gita a Parigi. Io mi ero già fatto la bocca che nella primavera saremmo andati insieme in gita a Parigi. Lei avrebbe accompagnato la sua classe e io avrei passato la mia prima gita romantica con una donna. Lei però, la sera prima della partenza, quando siamo d'accordo che sarei rimasto da lei a dormire, mi dice che non verrà, che non se la sente, che mi doveva parlare prima, però non l'era venuto. Che insomma, ha un fidanzato, che è convinta che lui sia quello giusto e che di lì a poco si sarebbe sposata con lui, ma che comunque per lei era stato fondamentale incontrarmi. Io lì per lì dico, va bene. Torno a casa a dormire e poi in gita a Parigi ho una tresca con una sua allieva, con le tette giganti e il corpo chiuso dentro un body di pizzo. Lo faccio per sviare le dicerie che oramai giravano sulla nostra storia. E infatti le dicerie svaniscono. Intanto il liceo continua ad essere un disastro, ma a fine giugno 1994 finalmente finisce. Finisce. E il via me lo dà ancora lei, la mia prof. membro interno della sua classe, e lo fa dettandomi dalla prima alla penultima parola della versione di latino, alla maturità. L'ultima parola no, perché la mia prof, la stronza, il mio membro interno, la interrompe e la sgrida. La nostra storia d'amore si è interrotta per la gita a Parigi. Poi lei si è sposata e io ho iniziato un'altra vita. Ma per qualche anno ancora ci siamo incontrati. Sono stato il suo addio al nubilato. Sono stato in vacanza con lei e suo marito. E sono diventato per un certo periodo anche amico di lui. Poi, quando partiva per il lavoro, io rimanevo con lei. E poi la vita per entrambi è semplicemente andata avanti. E per la nostra storia non c'è più stato quello spazio. Da qualche parte devo avere ancora l'ultima lettera che mi ha scritto prima di interrompere quella strana relazione. Quello che mi porto ancora addosso era il gusto che provavo la mattina a scuola, quando ci scambiavamo i libri nell'intervallo, con dentro qualche biglietto, e ci guardavamo complici del nostro segreto inconfessabile in quell'ambiente che puzzava di muffa a 15 anni. Quando avevo 16 anni mi sono fidanzato con la prof di zootecnica, a parte che superiori erano, tipo agraria immagino. Siamo stati insieme 4 anni. Eccolo qua, giusto. Istituto Tecnico Agrario di Pianezza, Torino. Ciao Massimo. 349-238-6666. Non è l'unico, evidentemente, Mauro, ad aver avuto una storia. Ah, intanto risponda ai messaggi che sono arrivati, che dicono che a sentirmi da come conduco oggi ho già cominciato a bere. La risposta è no, solo alle 16.30. Dicevo, non è l'unico, Mauro, evidentemente, ad aver avuto esperienze come queste, però è sicuramente tra i pochi che io abbia sentito dal vivo. Pronto, Mauro? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao. Abbastanza bene, ti ringrazio. Senti, innanzitutto sei ufficialmente il mio idolo, nel senso che queste sono delle cose che sono... Tiziano Bonini qua di fianco a me dice è l'idolo di tutti in realtà, anche Davide Cioccia e Filippo Aureggi non lo ammettono mai così, perché... Cioè, perché obiettivamente tutti bulli con i tuoi amici di questa cosa, la racconti in giro facendoti... È dal 93 che la racconto questa storia, ormai sanno proprio tutti. Tipo alitandoti sulle unghie e asciugandotele sulla camicia, assolutamente, guarda, cioè, proprio la sanno tutti ormai, veramente. Senti, l'hai più sentita o da quanto non la senti? Guarda, sono passati veramente tantissimi anni... Da allora, e per qualche anno appunto, come ti ho raccontato, l'ho sentita, dopodiché è sparita dalla mia vita completamente, fino a qualche anno fa, quando grazie alla posta elettronica così ci siamo risentiti e ci siamo rivisti per caso, ma è stato molto strano, era meglio se non ci fossimo rivisti, devo dire. Sì, cioè, quindi sì. Della serie le cose chiuse teniamole chiuse? Le cose chiuse teniamole chiuse, io sono assolutamente per questo partito. Sì. Senti, sì. Invece tu adesso hai chiaramente un'altra vita, immagino, hai dei figli e quindi avrai anche una compagna. Come si chiamano i tuoi bimbi? Si chiamano Olmo e Ada. Hai scelto dei nomi comuni? Sì. Si chiamano così. Senti, invece scusami, a me è sfuggito un dettaglio, poi non voglio veramente entrare troppo nel merito, però la questione è, proprio torniamo alla prof 5 secondi, perché guarda, siamo lì tutti, che è dall'inizio della puntata che siamo lì che vogliamo capire esattamente cosa è successo. Quando lei si è sposata, tu dici sono stato il suo addio al nubilato. Avete fatto una festa a due oppure siete incontrati dopo? Sì, diciamo che io quella sera sapevo che si sarebbe sposata l'indomani e gli ho telefonato per farle gli auguri e lei mi ha detto vabbè, però potremmo anche vederci. Io e ho preso... Hai preso la ritmo 60 CL. Esatto, ho preso la ritmo 60 CL e insomma ho detto va bene, quindi sono andato a... L'hai raggiunta. Senti, fai l'attore Mauro? Sì. Teatro, cinema, TV, quello che capita? Quello che capita, esattamente, quello che capita, tiriamo a campare, insomma. Senti, dimmi e poi ti lascio andare che devo chiudere. Dimmi la prossima cosa che fai, dove possiamo vederti, se ce l'hai già in programma. Sarà a Roma a maggio. A maggio di quest'anno qua? Di quest'anno, sì, sarà a Roma. Di quest'anno qua. Dici cos'è? È una commedia nuova. Non lo vuole dire, non lo vuole dire. No, è una commedia nuova. Va bene. Mauro, ti ringrazio moltissimo per averci fatto sentire confondere le acque, Matteo. Bravo, per averci fatto sentire un po' tutti fighi come te a 17 anni. Ti ringrazio. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. La storia di Mauro che avete sentito poco prima della borsa è una storia appunto che sembra inverosimile e invece è più verosimile di quanto sembri, e parla di un amore tra una persona giovane e una persona più matura. La storia invece che sto per raccontarvi è un'altra, è di un altro tipo. Sono due persone che hanno più o meno la stessa età e quindi vivono l'amore e il rapporto nello stesso modo. La storia però ha a che fare con il momento in cui scopri che tu stesso non hai fatto qualcosa che non andava. Infatti Ugo, che è l'autore della storia, dice: il problema è che ero stato troppo poco romantico con lei. E quindi parla di quando c'è uno che, diciamo, tira in qualche modo la storia, l'altro che si fa tirare, e a un certo punto quello che tira semplicemente non ce la fa più. Questa storia parla di amore, parla di qualcuno che capisce che ha sbagliato e cerca di recuperare, parla di Cineforum, e parla soprattutto alla fine, state ad ascoltarla fino alla fine, parla di una frase che lei dice a lui che lui non capisce ma che gli rimane in testa. Questa storia è scritta da Ugo e si chiama Lasciarsi e smettere di fumare. Il giorno che cominciai a fumare avevo circa 20 anni e pensai che stavo facendo una cazzata, ma in quel momento sentivo che era necessaria. Pensai subito che dovevo smettere, ma con calma, potevo metterci una vita a smettere di fumare. Quel giorno stavo passeggiando per casa da circa un paio d'ore, senza uno scopo. Avevo un esame a breve, ma non riuscivo a concentrarmi. Tutti i pensieri erano per Silvia. Forse era la prima volta che occupava tanto spazio nella mia vita, e lei manco lo sapeva. Se n'era andata così, vigliacca. Mi aveva detto quelle boiate tipo: prendiamoci una pausa, che poi tanto sai come va a finire. Io quel giorno mi convinsi che c'era qualcosa che non avevo fatto. Sì, quel giorno mi convinsi che era colpa mia. Presi in mano le lettere che mi aveva scritto, ripercorsi in ordine cronologico le nostre corrispondenze per mail, parole tipo: vediamoci, ti aspetto, ti ho fatto un regalo. Era sempre lei che voleva vedermi, che si sbilanciava, che mi faceva il regalo. E io non lo sapevo. Io era la prima volta. Io mi scusavo. Anaffettivo, ecco cos'ero. Ero anaffettivo. Sì, era chiaro. Quello era il problema. Non le avevo mai detto la parolina magica. Non avevo mai benedetto la nostra storia. Mai in 2 anni le avevo detto che l'amavo. Avevamo poco più di 20 anni e io ero al tempo molto tirchio nei sentimenti. Ci eravamo conosciuti tramite un'associazione che faceva cooperazione internazionale. Era una storia legata al movimento che c'era nei primi anni 2000. Era una bella storia, era nata lungo il corteo delle manifestazioni. Finii per convincermi che potevo ancora mettere le cose a posto, bastava che le dicessi che l'amavo. Se poi quella fosse stata o meno la verità, in quei momenti mi apparve secondario. Era quello che ci mancava? Non sapevo nemmeno quello che era, però mi pareva marginale. Come il coyote dei cartoni, quello che quando sta per cadere nel canyon, un cespuglio a cui attaccarsi lo trova sempre. Cos'è? Per caso in quei momenti il coyote si mette a pensare se il ramoscello non regge? Ma che? E quindi anch'io mi attaccai a quei tre peli di speranza. Fuori pioveva e io non avevo la macchina. Andai alla fermata per prendere l'autobus. Avrei dovuto aspettare un'ora. Decisi che era troppo. Mi misi la mantella cerata e presi la bici. Se ci penso, mi viene da ridere. Perché può capitare davvero di sentirsi in un film. Fuori era tutto grigio. Una di quelle piogge lente ma inesorabili, metalliche. D'altra parte era febbraio. La mantella che conservavo sin dai tempi degli scout era di un rosso acceso e la cosa mi piaceva. Pedalavo furioso e felice, la prima volta nella vita che mi sentivo romantico. Felice, certo, perché stavo andando a dire la cosa più bella del mondo. Ero l'unica cosa colorata che vedevo intorno a me. Entrai in centro. Arrivai da lei sudato e bagnato fradicio e suonai il campanello. Niente, nessuna risposta. Poco male, mi dissi, faccio un giro e ripasso. Erano solo 6. Entrare in un bar, figurarsi. Salii sulle mura e presi a pedalare in tondo. Ripercorrevo la nostra storia. come ci conoscemmo a Parigi. Io ero in giro e lei era al Social Forum e parlava così bene il francese. E poi Bologna, il Giglio, il Portogallo. Non avevo dietro i miei appunti, ma ricordavo bene cosa scrissi una mattina a Lisbona dopo che avevamo fatto l'amore e lei aveva ripreso a dormire. Più di così non si può. Perché l'avevo scritto? Ma certo, ce l'eravamo sempre detto, e con orgoglio pure, che la nostra storia stava in piedi sulle canne come le piante dell'orto. Io borghese, lei no. Io genitori separati, lei no. Io Mar Rosso, lei montagna. Scienze politiche contro ingegneria. A poco serviva il curriculum in sviluppo e cooperazione. Se penso che avevamo cominciato ad uscire in tre, io, lei e quel suo nuovo amico, Cesare, io comincio a pensare che fossi veramente innamorato. Lei mi aveva detto che era solo un amico e io ci credevo. D'altra parte aveva più di 30 anni, era pelato. Ai miei occhi sembrava un sessantottino che non ha smesso di vendere i braccialetti fuori dai concerti. Tornai a suonare. Mi aprì sua madre. Ugo, sei tutto bagnato, vieni su. Silvia non c'è, è andata al cinema. Io rimontai in sella perché, certo, stava andando al circolo del cinema. Era martedì. Spesso costringeva anche me ad andare al cinema. Al cinema non ci andava mai da sola, dopo quel film, Le invasioni barbariche. Io quella volta non ci andai, e lei, che aveva lo zio malato, si prese in faccia 2 ore di storia di un malato che aspettava solo di morire. Quando arrivai al cinema a prenderla dopo l'allenamento, piangeva come una vite tagliata. Ecco, la questione era che io non ero riuscito a volerle abbastanza bene. Ero felice, mi sentivo un alfiere di qualcosa che avevo scoperto anch'io, perché mi ero liberato forse di qualcosa, di parole che erano da troppo tempo dentro di me senza essere state mai dette. Davanti al cinema c'erano solo 3 persone, uno di loro lo conoscevo di vista. Mi guardò e mi disse: proprio non te lo volevi perdere l'ultimo metro in lingua originale, eh? Io ero completamente fradicio. Posai la bici, mi guardai. Ero ridicolo. E fu in quel momento che gli chiesi: hai una sigaretta? Lui me la porse con fatica. Io non sapevo ancora quanto sia scocciante dar via le sigarette. Ringraziai e mi misi sullo scalino di un portone, nascosto da una macchina, ad aspettare. Fumavo. Me la rigiravo tra le dita, incerto su quale presa fosse la mia, indice o medio o pollice indice, più intrigante da capobanda. E poi come buttare fuori il fumo, i cerchietti rigurgiti dal naso. Accavallavo le gambe e le allungavo, e nel frattempo mi guardavo la sigaretta. Esperimenti che a poco mi hanno conferito un personale modo di fumare. Ognuno fuma a modo suo. Esperimenti che avrei fatto e rifatto, finora. Atteggiamenti imprescindibili. Modi di fare e di gesticolare di cui non possiamo fare a meno. Quella fu la peggiore sigaretta della mia vita. A metà la lasciai andare a terra. Era arrivata Silvia. Non era in bici e non era neanche a piedi. Era piuttosto a cavallo. A cavallo di quel Cesare che la teneva sulla schiena. E correva. Ed erano infantili, felici. Ed erano belli. Sfacciatamente belli. Silvia mi vide solo quando mi sfrecciò davanti e non posso dimenticare il modo in cui cambiò espressione. Scese da cavallo e mi aspettò lì, a pochi metri. Io ci andai e anche se mi tremava la voce, glielo dissi lo stesso, quello che non l'avevo mai detto. Non odiare l'amore, mi rispose lei. Il meglio di Voi Siete Qui tutti i giorni per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì, non una ma 2 storie al giorno. Continuate a scrivere, continuate a inviare un episodio della vostra vita in una pagina. Voi Siete Qui @radio24.it.